Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 20 gennaio, buongiorno da Caterina Bombarda e da Ignazio De Francesco. Buongiorno. E tutti i nostri ascoltatori tra Città e il Carcere, siete sempre su Liberi Dentro e Duradio, frequenza 103.1 di Radio Città Fujiko e sempre al canale 636 di Teletricolore. E oggi siamo sempre qui per questa mezz'oretta di accompagnamento di quello che è il nostro programma Ponte tra la Città e il Carcere, che ci piace considerare così. E oggi, prima di passare alle notizie dall'altra sponda, apro io con una notizia dall'altra sponda, Ignazio, perché voglio parlarvi di un articolo che è uscito su Internazionale, a firma di Giuseppe Rizzo, intitolato Un altro anno da dimenticare per il carcere. Perché? Perché parlando dei dati sull'incarcerazione, in particolare negli Stati Uniti, sono dati che fanno molto preoccupare. Negli USA il rapporto alla popolazione sono 655 ogni 100.000 abitanti detenuti, quindi veramente tanti. E in Italia, facendo un po' il paragone, siamo a 90 detenuti ogni 100.000 abitanti e dal 1990 a oggi c'è stato un raddoppiamento delle persone all'interno delle carceri, passando circa da 24.000 in più a 60.000 in più nel gennaio dello scorso anno. E è un articolo questo interessante, lo consiglio, fa venire voglia di approfondire anche su questi dati, è anche un po' critico perché passa in rassegna questo anno difficile appena trascorso del 2020 e gli accadimenti legati al mondo carcerario, però alla fine è un articolo che chiude anche con un dato di serenità, diciamo, vogliamo dire, perché le carceri italiane alla fine mantengono un senso di giustizia e forse anche con un po' di immaginazione, anche perfino di dignità verso le persone detenute. Quindi questo ci lascia un po' di ben sperare che le cose possano in qualche modo migliorare nel nostro servizio alla popolazione detenuta. Ma adesso do subito la parola a te perché invece ci porti in Tunisia. Sì, oggi siamo, Caterina, in Tunisia per parlare di un altro carcere, un carcere moderno che è il carcere un po' di tutti, che è il carcere dell'internet. Internet che è la rete web, che è una cosa, in arabo si dice ashabaka, l'elettronia, che ovviamente è una grande opportunità e bisogna dire che purtroppo ancora non siamo in grado per le nostre case circondariali di consentire l'accesso alla rete delle persone che vivono in carcere per motivi per esempio di studio, di informazione, di didattica a distanza. Quindi ci sono tante cose positive che fa la rete, compreso la nostra trasmissione che utilizza moltissimo la rete, però ci sono anche delle criticità molto forti. Una di queste ne parla appunto il giornale Tunis Ultra, il giornalista Ramzi El-Ayari, e il titolo è questo: Al-Idman al-Elektroni khatar yuhaddid al-adid min al-atfal wa al-shabab fi mujtama'ina. Traduciamo letteralmente: l'idman, la cronicità, l'uso cronico, la cronicità dell'uso della rete è un pericolo che minaccia molti dei bambini e dei ragazzi della nostra società. E questo giornalista, Ramzi El-Ayari, dice che attualmente, secondo i dati che lui ha raccolto, che arrivano fino al 2019, ci sono 7,9 milioni di tunisini che usano la rete elettronica, che quindi circa 67% della popolazione, che è circa di 11-12 milioni in Tunisia. Quello che preoccupa di più è l'uso notturno della rete, a parte andare a vedere cose che non è bene che si vada a vedere, perché si trova di tutto, il bene e la spazzatura sull'internet, ma è il fatto che riduce il tempo in cui si sta seduti insieme. E questo noi sappiamo che è un uso arabo molto importante, e di tutto, non solo arabo, Bidiwan, la mamma con i figli, con i fratelli, con gli amici, si sta insieme a chiacchierare. Se uno si chiude nella sua stanza, è finito, la vita sociale è interrotto. Quindi un allarme che ci viene da Tunisia anche per l'Italia. E vuol dire anche il nostro uso, per esempio, della televisione. Ecco, mi sento dire che in certe stanze di pernottamento anche 17 ore al giorno, troppo. Bisogna dedicare uno spazio per i rapporti umani. Quindi in particolare è una sollecitazione morale, perché per il tempo da passare insieme con le amicizie familiari, ma anche di salute per i tempi del sonno-veglia, che ricordiamoci sono importantissimi, altrimenti se non si dorme si rimane stanchi, si diventa irascibili. Per cui veramente l'invito è quello di dormire, rispettare i limiti e i tempi del sonno-veglia. 8 ore bisognerebbe dormire. Bene, arriviamo al nostro primo stacco musicale, sempre con Fairuz. La gente mi Saluti chiede. da Nas, la gente mi chiede, siamo in tema, ascoltatela. Musica. Rieccovi, adesso invece dopo le notizie di cronaca riprendiamo con le notizie un po' di cultura generale, cultura araba e sempre con le nostre notizie di Galateo Arabo, vero Ignazio? Allora, per il Galateo arabo parliamo ancora di generosità e abbiamo detto che la generosità vuol dire dare di cuore, non per un interesse. Il secondo passo è stato che la karama, la generosità, rende felici chi la fa, rende felici chi la riceve, ma forse ancora di più, c'è più felicità, noi diciamo, nel dare che nel ricevere. E il terzo punto è molto bello, allora sentite cosa si dice in arabo. Sawa kunta tatafalo min jiranika o min sadikika, intabah lima kad yajal hayat al-shakhs ma ashal al-maqrab. Shahid al-shakhs alladhi tatahaddas ma'hu wanzur kayfa yumkinuka musadatahu. Allora, quando tu hai rapporto con un tuo vicino, che può essere il compagno di sezione, che può essere il vicino di casa, che può essere l'amico, chiunque, osserva di che cosa ha bisogno e fallo. E questo vuol dire fare la sorpresa a uno prima che te la chiede, non che ti devi chiedere, noi diciamo bidaci, cioè hai bisogno di qualcosa, sai, avrei bisogno di questo, di quel latte, un po' di pane, che mi vai a fare questa cosa. No, osserva, previeni la persona e fagli questa sorpresa. Io devo dire che ho abitato tanti anni in Medio Oriente, queste cose te ne fanno ogni giorno a decine. La gente sta attenta di quello che ci sono tanti atti di gentilezza che uno dice, ma come lo sapevi che io avevo bisogno di questa cosa? Quindi è molto bello. E aggiungo un'altra cosa che dice l'Islam, il mondo arabo, il Galateo arabo, at-taysir wala at-ta'sir, cioè rendere facili le cose alle persone e non difficili, che vuol dire stare attenti alle cose di cui hanno bisogno. Molto bello questa immagine sempre della cura dell'altro che va oltre le richieste esplicite, no, di quello che si ha bisogno. Ma passando invece a un argomento più leggero, parlando di buon umore, prima di lasciarci, cosa ti viene in mente? Buon umore sempre riferito alla cultura islamica. Abbiamo, così propongo sempre Giuffa, sempre suggerendo, scriveteci, come le fiabe, no? Caterina ha fatto il Scriveteci, ponte di esatto. fiabe, chiediamo anche scriveteci le vostre barzellette, come si ride in Romania, come si ride in Albania. Sappiamo che ci sono dei ragazzi della Mauritania, del Senegal, del Gambia, del Ghana, dai, in Nigeria, quali barzellette si dicono in Nigeria? Allora, sentite queste, Giuha è sempre così, è stupido ma anche intelligente, simpatico, no? Allora dice, da al-himar bimunfaridi, da himaru fa akada yufattishu anhu wa yahmadu la shakirun, fa saluhu limada tashkurullah, fa kala ashkurhu li anni lam akun rakiban ala al-himar, walau kuntu rakiban alay la di'tu mahu. Allora lui dice che ha perso l'asino e va in cerca del suo asino, e però nello stesso tempo loda Dio, sia lodato Dio, sia lodato Dio, e dice, ma perché lodi Dio? Ecco che hai perso l'asino, dice, perché sono stato fortunato che non ero sopra di lui, quando si è perso che mi sarei perso anch'io. Ecco, questo un po' le mufarakat, le assurdità di Giuha. Di Juha. Bene, prossimo stacco musicale, questa volta lo dedico a un cantautore italiano perché abbiamo parlato di giustizia nell'apertura, Francesco De Gregori, Il bandito e il campione, c'è una citazione, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma al proprio destino nessuno gli sfugge. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. E rieccovi su Liberi Dentro Eduradio. Adesso siamo qui con la seconda ospite della nostra puntata. Lei è Roberta Licalzi e in realtà la conoscete tutti perché ha fatto parte della prima e della seconda stagione di Liberi Dentro, quindi sia da marzo a giugno che da giugno fino a ottobre è stata con noi con le notizie sportive. E infatti Roberta, che è di origine bolognese, classe 1981, ad oggi è consigliera comunale del Comune di Bologna, per l'appunto, e ti occupi di diritto civile in senso più ampio, ma anche di diritto sportivo. Perché questo? Perché ce ne vuoi parlare? Perché sportivo? Ce ne vuoi parlare un attimo? Beh, intanto buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito. Lo sport mi piace a 360 gradi, quindi lo pratico da quando ero piccola, forse appena nata, già nella pancia davo, come tutti i bimbi e le bimbe neonati, dei calci nella pancia della mamma, e poi quei calci sono diventati calci a un pallone appena sono cresciuta. Quindi in cortile con la mia mamma, mio fratello, mio papà, e poi pian piano con altri bimbi. A quel tempo non bimbe, perché a Bologna ero davvero un po', se non l'unica, quasi l'unica bimba che giocava a calcio. Ho iniziato a giocare a calcio da piccolina e quindi lo sport, insomma, ce l'ho nel sangue, mi circola nelle vene, e crescendo mi occupo di sport sia come avvocata, che quindi nella mia professione, che come consigliera comunale, perché è una delle materie che più mi piacciono e che mi impegnano nella vita quotidiana sia mia che della città di Bologna. Quindi sono riuscita a coniugare le mie passioni, che credo sia un bel traguardo e un obiettivo che appartiene un po' a tanti di noi, e quando ci si riesce è una bella soddisfazione. Beh, intanto complimenti, e poi so anche che in questa vita impegnatissima che hai fatto volontariato anche alla Dozza. Sì, io ho fatto... Esatto, sono nata calcisticamente nel DLF e poi sono passata alla Dozza, quindi due società appunto di un quartiere della città, che è il quartiere Navile, e ho giocato anche, fatto calcio in San Donato. Sono un po' i due quartieri che, dove vivo, dove sono nata, dove abito e dove ho praticato molte attività sportive. E poi ho fatto volontariato in vari ambiti, sia sportivi ma anche sociali e sanitari, come ad esempio la parentesi di volontariato in AGEOP, che è una realtà che si rivolge sempre a famiglie, bambine e bambini in difficoltà, perché credo che la cosa bella che ti insegna lo sport sia appunto l'inclusione e l'aiuto verso gli altri, soprattutto, ma non solo, ma soprattutto lo sport di squadra ti insegna appunto a fare squadra. E quindi, così come quando ti rivolgi a un compagno o una compagna, io ho allenato anche per tanti anni, quindi queste cose le ho insegnate ai piccoli e alle più piccole, a aiutare un compagno in difficoltà che magari ha perso un contrasto, ha perso una palla in una partita, la stessa cosa bisogna fare nella vita quotidiana. Quindi chi è in difficoltà va aiutato, perché in un momento di difficoltà ci può essere la tua compagna di squadra, e magari la partita dopo, il momento dopo, ci possiamo essere noi stessi in ogni ambito della vita. Quindi credo che questo sia uno dei valori più importanti che insegna lo sport e che poi ci si porta dietro in tutti i contesti in cui ci si relaziona con gli altri. Grazie, e grazie anche di aver parlato della Dozza come quartiere, come parte della nostra città di Bologna, nel quartiere Navile, dove tra l'altro vivo anche io, per cui lo sento. E ti chiedo, siccome siamo al nostro secondo stacco musicale, se vuoi lanciarti un brano prima di riprendere la nostra intervista. Beh, allora, a me piace tantissimo Eros Ramazzotti, da quando ero piccolina. Avevo 6 anni quando... anzi 5 anni, quando nell'86 partecipava a Sanremo con un brano che è meraviglioso, che è Adesso Tu. Però oggi scelgo un altro brano di Ramazzotti che mi piace tanto, che è Solarità. Okay. Solarità, perché credo che in questo momento storico abbiamo davvero bisogno di una solarità che non è solo quella ovviamente climatica, ma è soprattutto quella del cuore. Vai a Solarità, allora. Solarità è questa qua, la parola chiave che ti do. Aprire farà quegli occhi che si stanno abituando al buio da un po'. Solarità, intesa lo sai, come chiarezza dove sempre non c'è. Come calore d'umanità che vorrei sentire. Si diffonderà di più. Ah, Bene, rieccoci dopo questo brano bellissimo che hai lanciato e dicevi appunto volontariato in carcere. Sì, tra le mie attività degli ultimi anni c'è anche il volontariato in carcere, un'esperienza davvero bella perché è vissuta a pieno. E abbiamo fatto con alcune colleghe e amiche un'esperienza di balli di gruppo che, detto da una calciatrice, può far sorridere perché insomma sicuramente la mia prima caratteristica sportivamente non è la grazia della danza, ma è più la fisicità del calcio, che è lo sport che ho praticato per tanti anni, però i balli di gruppo hanno funzionato. Abbiamo fatto questo corso, o meglio questo ciclo di incontri con le detenute al carcere, appunto alla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, ed è un'esperienza vera, piena. Le ragazze, le donne detenute si sono avvicinate a queste lezioni, a questi momenti insieme, all'inizio non tantissime, poi sono aumentate di numero considerevolmente, tant'è che quando era bel tempo abbiamo fatto alcune lezioni anche fuori, perché hanno visto che era un momento davvero di sfogo fisico e mentale, ballando, stando insieme, chiacchierando. E credo che sia stato un momento davvero emozionante per tutte, per me e per Elena, che era la vera maestra di balli di gruppo. Io più che altro seguivo, andavo dietro e qualche volta facevo anche ridere le ragazze che ballavano, perché ovviamente non mi venivano benissimo tutte le mosse, e quindi c'è stato anche un momento un po', ecco, così leggero, di serenità, e che ci ha fatto bene. E l'altra Elena, anche lei fotografa, ha colto dei momenti meravigliosi di questi nostri incontri. In attesa di magari appena sarà finito tutto questo, di ricominciare a fare attività insieme, anche dentro alla Dozza per l'appunto e anche nelle altre carceri della nostra regione, un consiglio sportivo per chi è dentro, ma non solo per chi è dentro nelle carceri, ma tutti siamo dentro nelle nostre case, soprattutto questi giorni di zona rossa. Cosa potremmo fare per mantenere il nostro corpo allenato? Ma allora, intanto condivido con quello che hai detto, cioè davvero parlare di dentro e fuori. Mi piace sempre parlare di un noi, di una società, di una comunità che si incontra, e quindi nonostante le difficoltà e le motivazioni per cui le persone purtroppo si trovano ad attraversare anche momenti in carcere, però davvero più che un dentro o fuori ci deve essere una voglia di stare insieme, di aiutarsi, perché poi facciamo parte tutti di un'unica comunità che può essere una città o ancora più grande un paese. Quindi grazie per avermi dato questo spunto. E allenarsi all'interno di uno spazio anche ristretto è quello che è capitato a molte e molti di noi, anche sportivi, appunto nel periodo del lockdown. Il consiglio è intanto un po' di costanza. Se ci è permesso fare un po' di allenamento, anche fossero 10 minuti al giorno, un quarto d'ora al giorno, ma tutti i giorni o comunque più volte a settimana, perché la costanza ci aiuta mentalmente ma anche fisicamente. In uno spazio stretto non si possono fare grandi cose, ma in realtà si possono fare delle cose, ad esempio delle corse sul posto, degli skip, come si chiamano in gergo, e dei piegamenti sulle braccia. Non necessariamente bisogna avere un tappetino, si possono fare anche sul pavimento, per capirci, di un qualsiasi luogo. E quindi andare ad innalzare un pochino le pulsazioni, quindi lavorare in maniera intensa. Se io faccio una corsa sul posto, ma la faccio intensa, sto comunque lavorando, anche se non sono in un parco o in una pista atletica, per capirci. Quindi lavorare un pochino su tutte le sezioni del corpo, quindi dalle gambe alle braccia, e con esercizi più di movimento, appunto le corsette sul posto, oppure anche esercizi statici come gli squat, i piegamenti sulle braccia, gli affondi con le gambe alternati. Quindi si possono fare esercizi semplici per cui non occorre una grande preparazione fisica, atletica, una grande esperienza, ma che se si fanno un pochino bene con un po' di costanza ci aiutano a mantenerci in forma, e questo è importante. Grazie Roberta. Adesso lanciamo un altro brano musicale e noi ci rivediamo sempre qui la prossima settimana con te e i consigli sportivi. Grazie mille, a presto, ciao. Grazie a voi, buon anno e un abbraccio a tutte e tutti.